troppo spietato. C'è qualche stella, è come un disegno spezzato. Qualche lampione, piccolo lume isolato e freddo e perduto. Le strade vuote, non c'è neanche il classico cane. Ha vinto ancora, signora televisione. Signoro Troia, agita il culo, sembra con intenzione. Commendatore, gioca la carta sbagliata. Il suo compagno proprio non l'ha digerita. Però sta zitto, tanto con lui non si vince mai una partita. Bistecca intanto, urla per una primiera. E sul suo letto si sta ballando un bolero. Sua moglie brucia di febbre e di vita e si sta facendo le cure. La guardia si fa un caffè, poi se ne va. Mario dà un colpo di straccio al banco del bar. Mario dà un colpo di straccio al banco del bar. Mario dà un colpo di straccio al banco del bar. Stanno sfasciando il biliardino. Fra lui e loro fanno un po' troppo casino. Si alza il grosso che dice muti, poi tira via le palline. Il cavaliere torna dalla cavalcata, saluta Mario che chiede beh com'è andata. Lui con le dita fa un numero esagerato, proprio impossibile. Dice dammene una, segnamela. Mario sputa e tira fuori i conti del bar. Mario impreca e tira fuori i conti del bar. Mario sbuffa e tira fuori i conti del bar. Il gatto segna il territorio a suo modo, che sia ben chiaro a qualsiasi altro felino, a meno che non sia un bestione violento ed assassino. Si sente un tuono, ma è solo rombo che passa. Lo stereo abballa, 100 watt buoni per cassa. Il grosso gli urla dove andare, poi gli fa anche la mossa. Tanto rombo domani ripasserà. Mario manda tutti a nanna e poi chiude il bar. Mario manda tutti a nanna e poi chiude.